piano. Di Enrico Ruggeri. Quanti di voi da bambini hanno immaginato di essere gli eroi di un mondo fantastico? Beh, il bello di un sogno è proprio questo, perché non ci sono limiti nei sogni. Quando sogni non hai età, non hai confini e non devi tenere conto della coerenza. Bene, oggi voglio raccontarvi la storia di un uomo che ha realizzato un sogno che sembrava assurdo a tutti. Un uomo capace di colpi d'ala, di successi, di una straordinaria forza di volontà, forse anche di una grande fortuna nel momento preciso in cui c'era bisogno di fortuna. Era un uomo nato poverissimo che ha vissuto una vita veramente avventurosa, che è diventato ricco e che ha usato la sua ricchezza per inseguire la sua follia, il suo sogno, per dimostrare che dietro alla straordinaria opera di Omero, cioè dietro all'Iliade, c'era una realtà. Questa è l'incredibile storia di Heinrich Schliemann, l'uomo che ha scoperto la città di Troia. Salpiamo per Troia fra 3 giorni. Questa guerra non sarà mai dimenticata, né gli eroi che la combatteranno. Queste sono le parole di Ulisse nel film Troy del 2004. È la storia raccontata nel film. In realtà è molto americanizzata, c'entra poco con quello originale, ma una cosa è vera: i nomi degli eroi della guerra di Troia, i nomi che sono diventati leggenda: Achille, Ettore, Priamo, Agamennone, potrei andare avanti a lungo, e tutti questi uomini, tutti questi miti sono stati la vera ispirazione di Schliemann, soprattutto in quel momento della sua vita in cui, al termine della sua carriera commerciale, quando riesce a conquistare la grande stabilità economica, rinuncia a tutto per realizzare il suo sogno, svelare il mito, scoprire la verità che c'era, secondo lui e secondo me anche, di dietro al leggendario mondo omerico. E non è una scelta che avrebbero fatto in molti, ma dobbiamo partire dall'inizio per capire bene chi era Schliemann. Heinrich Schliemann nasce il 6 gennaio 1822 a Neubokov, siamo nel nord della Germania. Lui è il quinto di 9 figli, la madre è la figlia del sindaco di Stenberg, il padre è un predicatore protestante e quando il bambino è ancora piccolo viene assegnato alla parrocchia di Ankershagen, un villaggio non molto distante dove lui vive la sua infanzia, sviluppa il gusto per il mistero, per la scoperta, sì, perché nel villaggio si raccontano molte storie, leggende locali. Heinrich ne rimane affascinato. Ecco come lo stesso Schliemann descrive alcuni di questi racconti nel suo libro La scoperta di Troia. Si diceva che nel nostro giardino si aggirasse lo spirito del predecessore di mio padre, il pastore von Ruhstorff, e subito dietro il giardino c'era un piccolo stagno chiamato Scodella d'argento, dal quale a mezzanotte emergeva il fantasma di una fanciulla con una scodella d'argento in mano. Inoltre il villaggio aveva un piccolo colle cinto da un fossato, una tomba risalente forse all'antica età pagana, una cosiddetta tomba del gigante, in cui, secondo la leggenda, un antico cavaliere masnadiero aveva sepolto il figlio prediletto in una culla d'oro. Il padre Ernst è appassionato di miti antichi, incoraggia le fantasie del figlio, non conosce il greco ma sa bene il latino, glielo insegna, gli racconta la storia di Ercolano e di Pompei e poi gli racconta le gesta degli eroi omerici, i fatti della guerra di Troia e gli dice che la città è stata distrutta e che è scomparsa senza lasciare traccia. Heinrich non ha neanche 8 anni, non ci sono i film, le serie TV e quindi queste storie sono il vero spettacolo della vita. Lui rimane affascinato da tutto ciò, da storie raccontate con tanta passione, e allora riporta i racconti ai suoi compagni di gioco. I bambini lo prendono in giro, dicono che è uno con la testa tra le nuvole, dicono che fa racconti troppo complessi, e è così per tutti tranne che per 2 bambine, Louise e Minna Menck, che sono le figlie di un coltivatore di un villaggio vicino, che rimangono affascinate da queste storie. Tra i 3 nasce una bella amicizia. Minna, qualche anno dopo, diventerà l'amore giovanile di Heinrich. Nel 1831, quando Eirik ha 9 anni, muore improvvisamente la madre Louise. È una tragedia, ovviamente, una tragedia che colpisce tutta la famiglia, una perdita irreparabile. È la più grande disgrazia che mi potesse colpire, dice lui. E le conseguenze sono terribili. Il padre, che già di suo ha un problema con l'alcol, con la morte della madre viene abbandonato da tutti e interrompe di fatto i rapporti con la famiglia della moglie e manda i figli da suo fratello, che è un pastore che cura la parrocchia di Kalkhorst nel Mecklenburgo. E ecco come la giornalista e biografo Caroline Mored descrive questo momento difficile della vita di Schliemann. Suo padre era un predicatore, coinvolto in molti scandali. Quando Heinrich Schliemann aveva 14 anni, suo padre lasciò il lavoro. Lui dovette fare una sorta di rieducazione e venne mandato a lavorare come apprendista da un grossista nel Mecklenburgo. All'inizio è un periodo veramente duro per Eirik. A 11 anni viene ammesso al ginnasio a Neusterlitz e per lui è un sogno poter approfondire degli studi umanistici, però il padre non ha i soldi per farlo studiare e così dopo soli 3 mesi deve passare a una scuola professionale, quanto di meno affascinante agli occhi di questo bambino, e finisce gli studi nel 36. A 14 anni prende servizio come garzone in una piccola la drogheria a Fürstenberg, e il lavoro naturalmente non è né stimolante né leggero, dalle 5 del mattino fino alle 11 di sera. Erano anni, insomma, in cui si lavorava con questi ritmi nell'Ottocento: vende aringhe, burro, macina patate, spazza la bottega, una vita dura, triste. Poi un giorno succede qualcosa che risveglia in lui un antico desiderio, e lo descrive lui stesso nell'introduzione del libro La scoperta di Troia. Non potrò dimenticare finché vivo quella sera che entrò nel negozio un mugnaio ubriaco, Hermann Niederhofer. Era figlio di un pastore protestante di Rubel e aveva quasi compiuto gli studi al ginnasio di Neuruppen quando fu espulso dalla scuola per cattiva condotta. Scontento della sua sorte, purtroppo il giovane si era dato presto al bere, ma non aveva dimenticato Omero. E quella sera ci recitò non meno di 100 versi di questo poeta, scandendoli con pieno pathos. Sebbene non capissi una parola, quella lingua melodiosa mi fece un'impressione profonda e mi fece versare calde lacrime per la mia sorte infelice. 3 volte gli dovette ripetermi i versi divini e io lo ricompensai con 3 bicchieri di acquavite che pagai volentieri con i pochi soldi che costituivano tutto il mio avere. E quel semplice incontro cambia tutto. In lui si riaccende il desiderio della scoperta, il fascino per il mistero, per l'avventura. Capisce di essere veramente fuori posto nella vita che conduce. I poemi omerici diventano la sua ossessione. E un giorno, nel sollevare un barile, si fa male al petto, comincia a sputare sangue. È un brutto incidente. Però, quante volte nella vita, da un elemento negativo, da un fatto negativo, scaturiscono delle svolte. Ecco, lui questo incidente lo vive come una liberazione, una buona scusa per lasciare quel lavoro. Decide di cercare fortuna a Amburgo, ottiene un posto come mozzo di cabina in un brigantino, si chiama Dorotea, stanno per partire per La Guaira in Venezuela. Non è un grande miglioramento, ma almeno viene assecondato il suo desiderio di fuga. Eirik è talmente povero che per procurarsi una coperta di lana deve vendere il suo unico cambio di vestiti. E così il 28 novembre 1841 il brigantino Dorotea lascia il porto di Amburgo. Il viaggio dura pochissimo, c'è subito vento sfavorevole, la nave deve fermarsi, deve cambiare rotta, e poi la situazione si complica ulteriormente. 11 dicembre, la nave si imbatte in una terribile tempesta, rimane in balia delle onde per 9 ore, l'equipaggio viene sbalzato in mare e Eirik e pochi altri riescono a salvarsi su una piccola scialuppa. Con questa scialuppa raggiungono l'isola di Texel nei Paesi Bassi. Le autorità accolgono il gruppo, offrono un passaggio per tornare a Amburgo. Eirik però rifiuta, lui è in viaggio per fuggire dalla sua vita infelice, non vuole tornare indietro, ma non ha soldi, non ha appoggi, e fa l'unica cosa che può fare: va a Amsterdam e si arruola nell'esercito. L'inverno era cominciato. Io non avevo i vestiti adatti e soffrivo un freddo terribile. Il mio proposito di fare il soldato non poté essere attuato rapidamente come avevo pensato e i pochi denari che avevo raccolto in elemosina nell'isola di Texel furono presto inghiottiti dalla locanda della signora Gralman sulla Damsco di Amsterdam, dove avevo stabilito il mio quartiere. Quando i miei scarsi mezzi furono del tutto esauriti, mi finsi malato e fui quindi ricoverato all'ospedale. Insomma, Eric ancora una volta è finito dalla padella alla brace, non riesce a sfuggire a quello che sembra un destino sfortunato e irreversibile. Non si fa abbattere, però fa bene, perché alla fine la ruota gira, arriva un aiuto inaspettato, è un mediatore marittimo di Amburgo, si chiama Vente, è un amico d'infanzia della madre, è lo stesso uomo che lo aveva aiutato a trovare posto sulla Dorotea, insomma, viene a sapere della terribile sorte della nave, forse in qualche modo si sente anche responsabile, organizza una colletta per aiutare Heinrich, alla fine manda a Schliemann 240 fiorini olandesi, lo raccomanda al console prussiano a Amsterdam. Grazie a questa piccola svolta Heinrich trova un nuovo lavoro, c'è da timbrare cambiali, girare per la città per incassarle, fare da portalettere, un'occupazione meccanica che però non gli dispiace perché ha tempo per studiare. Quella per lo studio è veramente una grande passione. Lui spende metà del suo stipendio basso per pagare alcuni insegnanti privati. È molto dotato, in poco tempo impara a scrivere, leggere e parlare in 7 lingue: inglese, francese, olandese, spagnolo, italiano, portoghese e russo. E mi vengono in mente quei ragazzi qua che si lamentano perché non hanno sbocchi. E usa ogni momento della giornata lui per leggere, per esercitarsi a parlare varie lingue, 7 ripeto, è uno sforzo anche forse esagerato, ma niente, sprona allo studio più della miseria e più della certezza di liberarsene col lavoro intenso, questa me la segnerei. E nel 1844, a 22 anni, Heinrich Schliemann comincia a lavorare per l'ufficio commerciale Schröder & Company di Amsterdam. È un'ottima occasione, anche perché 2 anni dopo, nel 1946, grazie alla sua conoscenza del russo, viene mandato come agente a San Pietroburgo. Lui deve comprare e vendere merci e soprattutto indaco, cioè una sostanza colorante, questo famoso indaco dell'arcobaleno, e lo fa per il suo ufficio. Rimarrà agente per 11 anni di questo ufficio, però lavorerà anche in privato. In un solo anno ottiene risultati eccezionali, si iscrive alla corporazione dei grandi commercianti, ha delle grandi soddisfazioni, successo sul lavoro, si sposa con la figlia di un importante avvocato, Caterina Petrovna Liskinia, e nonostante questi impegni continua a coltivare la sua passione per lo studio. E nel frattempo, siccome 7 lingue erano poche, impara anche lo svedese e il polacco e per un caso veramente fortuito, peraltro, diventa cittadino americano. Poiché da lungo tempo non avevo notizie di mio fratello Ludwig, che all'inizio del 1849 era emigrato in California, nella primavera del 1850 andai laggiù e seppi che egli era morto. Mi trovavo ancora in California quando il 4 luglio 1850 essa fu proclamata Stato. E siccome tutti coloro che quel giorno risiedevano nel territorio erano ipso facto naturalizzati americani, diventai anch'io cittadino degli Stati Uniti. Insomma, il destino gli ha preparato una grande svolta, tutto sembra andare per il meglio, le difficoltà sono un ricordo lontano, però il destino è sempre imprevedibile. Nel 1853 scoppia la guerra di Crimea e Schliemann rimane coinvolto, non perché combatte, ma perché viene colpito nel cuore dei suoi affari. Nell'ottobre del 54, infatti, lui è in viaggio da Amsterdam verso Memel, che è una città della Prussia orientale, oggi sarebbe in Lituania. Sta andando lì per spedire delle merci sulle quali ha investito centinaia di migliaia di talleri, cioè in pratica tutta la sua fortuna. Poco prima di raggiungere la città, questa viene attaccata e ridotta in cenere da uno spaventoso incendio. Lui è disperato, crede di aver perso tutto, invece quando arriva scopre che tutte le sue merci sono miracolosamente scampate all'incendio. Quindi, insomma, come sempre nella vita ci vogliono capacità, determinazione, ci vogliono tante cose, però la fortuna ha un ruolo fondamentale e lui così riesce a trovarsi Rossi è in una situazione, diciamo, di vantaggio, perché vende tutto il materiale scampato al disastro, e anche perché l'incendio ha cancellato la concorrenza e non si fa scrupoli, fa affari d'oro con i legnami, ma anche con materie belliche come il salnitro, lo zolfo, il piombo, e altri suoi colleghi si fanno intimorire dalla guerra. Lui la cavalca, fa profitti incredibili, aumenta in un solo anno i suoi ricavi del doppio. Insomma, è all'apice del suo successo economico. Però non è solo uno scaltro affarista senza cuore. Lui non ha dimenticato il sogno che aveva da bambino, il desiderio della scoperta. Lui ha l'ossessione della scoperta, il fascino del mito. E questo pensiero fisso sta per cambiargli la vita. Gliela cambierà per sempre. Il falco e il gabbiano. Vi sto raccontando la storia di Heinrich Schliemann, l'uomo che ha riportato alla luce i resti della leggendaria città di Troia, e lo ha fatto seguendo esattamente le indicazioni dell'Iliade di Omero. Schliemann è un uomo tenace, è passato da un'infanzia di povertà assoluta, non aveva neanche i soldi per i vestiti, ed è arrivato a un riscatto sociale e soprattutto economico. È stato aiutato ovviamente dalla fortuna, però è stato guidato da una determinazione di ferro, dagli studi. Ha imparato 7 lingue in poco più di 2 anni, poi ne ha imparate altre, si è informato, ha combattuto la guerra della sua vita, ma non ha mai dimenticato il suo sogno di bambino, di mostrare al mondo che i racconti omerici erano storia e non fantasia. All'età di 10 anni offrì a mio padre come regalo di Natale un componimento in cattivo latino sui fatti principali della guerra di Troia e sulle avventure di Odisseo e Agamennone. Non immaginavo che 36 anni dopo avrei presentato al pubblico uno scritto sullo stesso argomento, dopo aver avuto la fortuna di vedere con i miei occhi il teatro di quella guerra e la patria degli eroi di cui Omero ha reso immortale il nome. Nel 1858 Heinrich, a 36 anni, ha accumulato un patrimonio tale da potersi ritirare dagli affari. Decide di mettersi in viaggio, va in Svezia, in Danimarca, in Germania, in Italia, in Egitto, va a Gerusalemme, attraversa il deserto, arriva a Petra, poi arriva in Siria, e durante questo viaggio impara anche l'arabo, perché non ci facciamo mancare niente qui. Insomma, arriva a conoscere più di 10 lingue diverse. Potrebbe vivere di rendita, ma è a un altro colpo del destino. Un commerciante russo si chiama Stefan Soloviev fallisce, non restituisce a Schliemann dei soldi che gli doveva. I due arrivano a processo, la giustizia anche allora è un po' lenta, ci mette anni a risolvere questa controversia. Insomma, Heinrich Schliemann ancora una volta è costretto a tornare in affari. Anche in mezzo ai vortici della vita, degli affari, non avevo mai cessato di pensare a Troia e alla decisione di riportarla alla luce. Il mio cuore era sempre attaccato al denaro, ma solo perché lo consideravo un mezzo per raggiungere questo grande scopo della mia vita. Inoltre, avevo ripreso l'attività commerciale controvoglia e solo perché nel periodo del lungo processo con Soloviev avevo bisogno di stare occupato e di distrarmi. Quando dunque il Senato respinse l'appello del mio avversario e questi, nel dicembre 1863, mi versò l'ultimo pagamento, cominciai subito a liquidare gli affari. E così nel 1864 Schliemann è di nuovo libero da incombenze, è di nuovo ricco, può riprendere i suoi viaggi, va a Tunisi, va a vedere le rovine di Cartagine, attraversa l'Egitto, l'India, arriva ai piedi dell'Himalaya, poi fa un giro in Oriente, Singapore, Hong Kong, Shanghai, Pechino, la muraglia cinese, arriva in Giappone, attraversa l'Oceano Pacifico, raggiunge San Francisco, e anche lì, siccome già allora, insomma, i soldi chiamano soldi, mette da parte un'altra piccola fortuna facendo da mediatore per i cercatori d'oro. Insomma, il senso degli affari evidentemente ce l'aveva. Insomma, passa 2 anni viaggiando intorno al mondo. Alla fine, nel 1866, si stabilisce a Parigi e il suo desiderio è dedicare alla scienza il resto della sua vita. Lui adora l'archeologia. Nell'estate dello stesso anno si rimette in viaggio, visita tutti i luoghi descritti da Omero. Nel 1869 si separa dalla moglie, che è stufa di seguirlo per queste sue peregrinazioni nei suoi viaggi da archeologo. Sposa una greca, la figlia di un mercante greco, Sofia Engastromenu, gli darà due figli che naturalmente lui chiama Agamennone e Andromaca, e questa donna Sofia seguirà il marito ovunque, lo aiuterà nel suo lavoro. E la giornalista e biografa Caroline Moorhead descrive così il loro incontro. Era ossessionato dalla Grecia e chiese ad un amico di trovare una ragazza adatta a lui in Grecia, perché voleva una ragazza greca. Questo amico gli scrisse mandando alcune fotografie. Una di queste era quella di una ragazza di 16 anni. All'inizio gli sembrò ridicolo. Avevano 32 anni di differenza, ma dopo un po' si innamorò della foto e le fece una specie di test di letteratura per vedere quello che sapeva di Omero. Alla fine andò ad Atene per incontrarla. Sentendola recitare, pensò che fosse la sposa perfetta. Aveva trovato la sua Elena di Troia. All'epoca di Schliemann si riteneva che l'antica città di Troia fosse da ricercarsi sotto un villaggio turco che si chiamava Bunarbashi, e lui invece segue con la massima precisione possibile l'Iliade di Omero e segue anche dei consigli di altri studiosi e cerca Troia più a nord, in una collina detta Issarlik. È un'altura 50 metri sul livello del mare, accanto alla valle dello Scamandro, del mitico fiume Scamandro, a 5 km dal mare Egeo e dallo stretto dei Dardanelli. Qui Schliemann comincia a scavare nel 1870. Per farlo non risparmia risorse, denaro, ce l'ha, arriva a far lavorare 150 operai al giorno, e tutto questo con gli strumenti di allora, strumenti rudimentali, erano anni in cui un semplice temporale poteva far perdere il lavoro di mesi. E scavando in quella collina Schliemann trova alcuni resti antichi, ma non è una sola città, ne trova 9, una sopra l'altra. Siccome è un irruento, punta subito allo strato più antico, ignora le rovine più superficiali che emergono pian piano. Questo perché lui è convinto che la città più antica sia proprio quella che cerca lui, la Troia omerica. Per raggiungerla distrugge reperti antichi e di grande valore, va avanti a scavare, va sempre più giù e finalmente trova la città che lui ritiene essere Troia. Cosa fa? Congeda gli operai, continua il lavoro da solo, non vuole testimoni, ed è un momento chiave perché lui riporta alla luce un antico tesoro, armi, gioielli, oggetti preziosi. Non ci sono elementi per identificare con esattezza questi reperti, ma lui ovviamente non ha dubbi, si tratta del tesoro di Priamo, dei gioielli di Elena. Ma per Heinrich Schliemann non è abbastanza, negli anni successivi vuole trovare altre prove della veridicità dei racconti omerici e va in Grecia alla ricerca di Micene stavolta. A differenza di Troia, l'esistenza di Micene non è messa in dubbio dagli studiosi, ma nessuno prima di Schliemann aveva fatto ricerche archeologiche adeguate. Tra l'altro, scavando tra i resti dell'antica città, Heinrich Schliemann riporta alla luce un altro tesoro. Qui Schliemann viene preso dall'entusiasmo, dalla brama di notorietà, non si cura troppo della verità di quello che dice, contatta tutti i giornali e dichiara di aver trovato la maschera e il corpo di Agamennone. Eric Klein, un archeologo storico della George Washington University, parla di questa maschera e del suo ritrovamento. In realtà la maschera trovata da Schliemann raffigurava il volto di un illustre sconosciuto. Anche il re di Grecia corse per vederla, ma nel frattempo Schliemann aveva trovato una maschera migliore e al re mostrò questa seconda maschera, con i baffi arricciati e barba dall'aspetto decisamente più regale. Sembrava un gentiluomo inglese dell'epoca vittoriana. Alcuni hanno addirittura sostenuto che Schliemann aveva fatto aggiungere alla maschera la barba e i baffi da un amico gioielliere. E insomma, Schliemann è un archeologo improvvisato, non è neanche un grande intenditore d'arte. In realtà lui trova nell'archeologia magia lo sbocco ideale del suo modo di essere, la realizzazione del suo sogno di bambino, trova una sorta di piccola grande immortalità. E all'epoca l'archeologia è un'avventura più che una scienza, non ci sono storia dietro e non ci sono regole. A Schliemann interessa dimostrare la realtà dei fatti descritti nei poemi omerici, vuole confermare che tutto è stato esattamente come l'ha narrato Omero, questo è il suo sogno. Però a questo punto l'appetito viene mangiando, lui crede che questo sogno possa anche dargli la fama e gli onori, quelli che con i soldi non si possono comprare, bisogna fare qualcosa di grande. Anche per questo ripercorre le gesta dei suoi eroi, scava, segue le tracce, sfida il caldo, sfida le malattie, sfida la sete, si gioca tutto. Il falco e il gabbiano. La figura di Schliemann è da sempre una figura molto controversa, è un po' sognatore romantico, un po' rivista senza scrupoli, un po' studioso, un po' improvvisato, è un po' uomo innamorato della cultura classica che impara 10 lingue, è un pochino parvenu. Lui però è l'uomo che ha trovato la città di Troia, quella descritta da Omero, ma è anche l'archeologo improvvisato che per assecondare la sua brama di ricerca distrutto dei reperti preziosissimi. In casi come questo, cioè casi di grande successo, partono quasi sempre le polemiche. C'è un certo Ernst Böttcher, che è un capitano d'artiglieria, che accusa Schliemann di falso, gli dice che lui ha trovato solo un'immensa necropoli e Schliemann cambia versioni, ha delle incertezze, il suo detrattore le usa a suo danno. La cosa grottesca è che anche questo Böttcher in realtà non è un uomo di scienza, entrambi sono un po' improvvisati e nasce una questione molto grande che approda a congressi, approda dagli specialisti, insomma a un certo punto Schliemann prende il toro per le corna, organizza una conferenza di studiosi a Troia proprio sugli scavi e invita il suo rivale Böttcher, lo mette con le spalle al muro perché sa che l'altro gode di prestigio presso il popolo tedesco, perché i tedeschi sono più impressionati dal fatto che uno ha un grado militare che non dal fatto che abbia un titolo di studi. Così invita come esperto un altro militare che alla fine dell'incontro, si chiama Steffen, questo maggiore, pubblica questa dichiarazione. All'inizio di dicembre si è svolto sulle rovine di Isarlik un convegno fra i signori dottor Schliemann e dottor Dorfeld da una parte e il capitano in congedo Böttcher dall'altra. Quest'ultimo, come è noto, ha cercato di dimostrare che le rovine di Isarlik sarebbero una necropoli preistorica a incinerazione e ha mosso contro il dottor Schliemann e il dottor Dorfeld l'accusa di aver deformato intenzionalmente i risultati degli scavi, occultando dati di fatto o distruggendo opere architettoniche. All'esame delle costruzioni architettoniche scoperte dal dottor Schliemann, le accuse mosse dal capitano Böttcher si sono rivelate assolutamente infondate e il sottoscritto ha riconosciuto che l'esposizione fornita dal dottor Schliemann e dal dottor Dorfeld nelle opere Ilios e Troia concorda con lo stato reale delle cose. Insomma, assoluzione con formula piena. Schliemann dimostra di essere un uomo d'azione, di essere tenace, ma di avere anche grande intuito. E negli anni successivi scrive molto, anche se anche lì fa qualche errore, un po' ingenuo, perché nell'introduzione di uno dei suoi libri, per esempio, inserisce la storia della gioventù, del suo primo amore, e non è certo il modo migliore per colpire studiosi e scienziati che già faticavano a ritenerlo all'altezza. Per raggiungere il riconoscimento che lui ritiene dovuto, a un certo punto mobilita l'opinione pubblica con delle lettere al Times per anche aggirare dei divieti imposti sul trasporto dei reperti. Però adesso io ho bisogno di capire meglio lo strano personaggio che è stato Schliemann, il suo rapporto tra storia e il mito, e ho pensato di sparare veramente in alto. Chiedo aiuto a Valerio Massimo Manfredi, allo storico, allo scrittore. Buongiorno, professore. Buongiorno, io la chiamo Enrico, professore. Io sono un suo fan. Oh, grazie, grazie, onoratissimo. Noi stiamo parlando di Heinrich Schliemann e la prima domanda che mi viene in mente è il rapporto tra storia e mito. Schliemann fu abbastanza monolitico in questo, non ebbe dubbi, cioè le due cose per lui coincidevano. In realtà, quanto i miti dell'antichità traggono dalla storia e quanto la storia antica è stata influenzata dal fascino del mito? La ringrazio, Enrico, per aver fatto questa domanda, perché è uno dei miei pallini. Intanto consideriamo il fatto che ai tempi di Schliemann la ricerca filologica, storica, non era certo ai livelli certo che abbiamo oggi, il discorso della critica delle fonti, eccetera. In sostanza, mito cosa vuol dire? Mito vuol dire narrazione, favola, certo, insomma, certo, no? Ecco, allora, intanto la narrazione orale, ovviamente, è infinitamente più antica della storia. Gli uomini hanno cominciato a narrare quando hanno avuto l'uso della parola, certo, poco dopo, insomma. La storia ha l'onere della prova e la storia poi, che è memoria, si trasforma in identità, quindi potentissima. Invece la narrazione è altrettanto necessaria, perché? Perché comunica emozioni. E noi abbiamo bisogno delle emozioni, abbiamo bisogno del sogno, abbiamo bisogno di più vita e più vite. Quindi, alla luce di questo ragionamento, è una sottigliezza inutile quella di chiederci se Schliemann ha preso le mosse più da indicazioni omeriche che non da elementi oggettivi. No, Schliemann credeva che Omero fosse la storia, raccontasse qualcosa che era realmente accaduto. Ma aveva ragione, perché a quel tempo Omero era considerato un mito. Non è vero, Omero è epica, è tutt'altra cosa. Se io dico il re di una piccola isola occidentale va alla guerra, sulla via del ritorno si perde, dopo anni e anni torna solo e privo di tutto, trova la casa invasa da giovani arroganti che gli divorano le sostanze e infliggono la sua sposa e li ammazza tutti. Ecco, questo può essere realmente successo, certo, però i ciclopi, le sirene, le caridi, eccetera, sono invece la dilatazione fantastica che fa il poeta. Ma senza l'Odissea saremmo infinitamente più poveri. Assolutamente, assolutamente. Ma quindi, chi era Schliemann? È uno che ha avuto la fortuna del principiante o uno che alla fine è arrivato alla conclusione giusta attraverso una strada discutibile? Beh, diciamo che già c'erano ipotesi, già c'erano stati tentativi, sì, di sondaggi sulla collina di Sisserlik. Schliemann ci crede e quindi il fatto che alcuni dicevano ma come Troia, la fortezza imprendibile, la città enorme, eccetera, tutto qui, questo grumo di edifici in cima a una collina, è stato dimostrato con la prospezione tecnologica che c'è un muro che circoscrive un'area forse abitata molto più ampia, sì, ecco. Beh, professore, grazie mille di questa lezione che abbiamo ascoltato con molta attenzione, grazie veramente. Grazie a voi e a tutti i nostri ascoltatori che ci hanno seguiti. 1890, siamo a Napoli, Piazza della Carità. Un uomo crolla improvvisamente a terra svenuto. È il giorno di Natale del 1890. Riprende conoscenza, ma sembra confuso, fa fatica a parlare, viene portato in ospedale, non ha con sé niente che lo possa identificare, tranne un biglietto da visita di un illustre medico napoletano, Vincenzo Cozzolino. La polizia rintraccia questo medico, che arriva e riconosce l'uomo. È Heinrich Schliemann, che lui aveva visitato il giorno prima, aveva appena sostenuto Schliemann un intervento chirurgico in Germania per cercare di porre rimedio alla sordità che lo affliggeva da anni. Heinrich Schliemann morirà a Napoli il giorno dopo, a 68 anni. Jim Morrison una volta ha detto: il vincitore è semplicemente un sognatore che non ha mai mollato. Insomma, quella di Schliemann è la storia di un grande sognatore, tenace, determinato, che ha avuto clamorosi colpi di fortuna e colpi da ala sorprendenti. Insomma, alla fine noi dobbiamo molto a uomini capaci di entusiasmarsi e di combattere e fare comunque fare dei passi avanti alla storia.